100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Ormai da settimane, quasi ogni giorno, ci troviamo a commentare dati contraddittori sul reale stato di salute della nostra economia. Capita spesso che i segnali di ripresa intercettati un giorno finiscano puntualmente per essere smentiti il giorno successivo. È esattamente quello che è accaduto ieri con la rilevazione mensile dell'Istat su occupati e disoccupati. Solo qualche giorno fa abbiamo detto della crescita dei contratti stabili nei primi due mesi del 2015. Abbiamo registrato quel dato senza enfasi, spiegando che quella crescita è in gran parte legata all'effetto sostituzione di vecchi contratti a termine con contratti a tempo indeterminato, che ora sono diventati più vantaggiosi grazie agli incentivi della legge di stabilità, quindi non una vera ripresa dell'occupazione. Oggi i numeri dell'Istat dicono addirittura che a febbraio la disoccupazione è tornata a crescere, siamo al 12,7%, e che, come se non bastasse, sono in crescita anche quelli che in linguaggio statistico sono chiamati gli inattivi, cioè persone che non lavorano e non studiano e che sono così sfiduciate da rinunciare persino a cercare un'occupazione. Come se non bastasse, rispetto a gennaio sono diminuiti anche gli occupati. Ecco, la combinazione di questi tre dati, più disoccupati, più inattivi, meno occupati, dice che i segnali di ripresa che qua e là vediamo faticano a trasmettersi al mercato del lavoro, dove per una vera svolta probabilmente non basta solo l'ottimismo e talvolta l'enfasi con cui il governo tende a presentare i dati. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Eccoli dunque i 19 dossier messi a punto dalla mini squadra di tecnici che faceva capo a Carlo Cottarelli, il funzionario ingaggiato dal governo italiano dal Fondo Monetario Internazionale per mettere a punto un programma credibile di tagli alla spesa pubblica. Come è noto, Cottarelli si è dimesso e ora il suo posto è occupato da Yoram Gutgeld e da Roberto Perotti, deputato il primo, professore in Bocconi il secondo. Dei dossier messi a punto da Cottarelli finora si era parlato, ma non erano mai stati resi visibili. Ora sono in rete sul sito del Ministero dell'Economia. In quei dossier si suggeriscono diversi rimedi per recuperare denaro pubblico. Un taglio agli affitti, ad esempio, che lo Stato paga per i suoi uffici, potrebbe valere 1,2 miliardi. Una riduzione dei trasferimenti alle imprese, soprattutto pubbliche, come le ferrovie, che per svolgere il cosiddetto servizio universale, cioè quello in perdita ma utile alla cittadinanza, soprattutto ai pendolari, percepisce un rimborso che è il 55% più alto di quello elargito dagli Stati europei alle rispettive compagnie ferroviarie. Un'operazione di questo tipo, ad esempio, potrebbe garantire 3,8 miliardi di risparmi, anche se è chiaro che avrebbe conseguenze sul servizio e sui costi del biglietto finale. Con l'accorpamento dei piccoli comuni fino a 10.000 abitanti, secondo i tecnici di Cottarelli, si avrebbero risparmi per 250 milioni. Dai cosiddetti fabbisogni standard nelle regioni si potrebbero recuperare altri 520 milioni solo il primo anno. Con l'accorpamento delle quattro forze di polizia si stimano 800 milioni in meno da spendere nel 2015 e 1,7 miliardi l'anno successivo. Tutto però è rimasto lettera morta. Anche il capitolo sui costi della politica, dalla cui razionalizzazione, ci dicono sempre i tecnici, si potrebbero avere risparmi cospicui. Quanto? Gli 007 di Cottarelli si arrendono. Troppo misteriosi e oscuri i flussi di finanziamento e soprattutto non accessibili a chi voglia analizzarli e magari ridurli. Non lo trovate un po' inquietante anche voi? Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.